e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Пожалуйста. Большое спасибо. 好的. 请. Marhaban. صباح الخير. Yes. Thanks a lot. Merci. Merci beaucoup. Bitte. Danke. novecentododici sono le lingue che esistono al mondo, tante, sicuramente troppe per conoscerle tutte, ma almeno due converrebbe impararle. Il nostro cervello ci guadagnerebbe parecchio, a dirlo è l'Economist, che scrive che essere bilingue aiuta le persone a essere più creative, più concentrate, ad avere più fiducia in se stessi. 800 24 00 24 per raccontarci, se volete, nella vostra lingua, se e quando avete imparato una seconda lingua, se avete avuto difficoltà o se invece è stato più semplice del previsto. Però a volte è la nostra lingua ad essere difficile, usiamo una parola al posto dell'altra, pensiamo ad esempio ai lapsus, oppure sarà capitato a tutti di provare quella fastidiosa sensazione di avere la parola sulla punta della lingua senza riuscire a buttarla fuori. 349-238-6666, come sempre potete scriverci, potete seguirci su Facebook o su Twitter, insomma non fate mancare le vostre parole anche al nostro numero verde, che vi ricordo è 800 24 00 24. Continuiamo a parlare, parliamo della seconda lingua, di quanto è difficile magari impararla e dei vantaggi che ne abbiamo avuto. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e Benessere. Meglio di una. Oggi parliamo di lingue, di come conoscerne due o più di due faccia bene al nostro cervello. Lo rivela l'Economist e ce lo conferma anche il professor Andrea Moro, professore ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria IUS di Pavia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quante lingue conosce oltre l'italiano? E mi verrebbe dire il pavese, immagino che conosca anche il dialetto delle sue zone. Sì, mi prende la sprovvista. Io me la cavo di solito con una battuta, dico che chiedere a un linguista quante lingue sa è un po' come chiedere a un medico quante malattie ha fatto, insomma poche. Parlo inglese e italiano fluentemente, poi ho studiato francese, greco e latino, ma c'è gente che ne sa molte, molte più di me. Professore, ma esistono lingue più facili di altre in assoluto? E poi soprattutto le lingue si evolvono, cambiano nel tempo? Dunque, la prima domanda è difficilissima, perché manca una metrica per misurarle. Sì. Non bisogna farsi trarre in inganno ovviamente dalla vicinanza, per noi lo spagnolo sembra facile, ma per uno che è nato a Tokyo mica tanto. E la prova del 9 però ce la danno i bambini, cioè l'acquisizione del linguaggio nei bambini non dipende mai nel tempo rispetto alla lingua. Tutti i bambini la imparano più o meno nello stesso periodo, da questo noi deduciamo che la complessità deve più o meno essere identica. Dove una lingua è più semplice in un caso, per esempio nel verbo, il verbo inglese sembra semplicissimo, poi diventa complicato in un altro, i tempi in inglese sono difficili da imparare per esempio. E allora alla fine si dice che tutte le lingue dovrebbero essere complesse allo stesso modo. Andiamo alla seconda domanda. Le lingue è meno difficile della prima? No, è più difficile. Va bene, sono contenta. Facciamo di averle. Finta di dimenticarmi. In realtà bisogna intendersi bene su questo, cioè le lingue certamente cambiano, ma chiedere se il cambiamento e l'evoluzione sono la stessa cosa è proprio una di quelle domande centrali non solo per la linguistica ma nella scienza. Un bel paragone che ci può aiutare è quella dei fiocchi di neve. I fiocchi che ci arrivano in testa in questo periodo sono tutti diversi l'uno dall'altro, ma nessuno direbbe che la neve si evolve. Un fiocco che cade adesso tra 10 minuti è diverso, ma in fondo è una variazione sullo stesso tema. Ecco, quello che pensiamo noi linguisti oggi, anche i neuropsicologi, è proprio che le lingue non si evolvano, ma mutino continuamente intorno a uno schema che rimane però costante. Mi è piaciuta moltissimo, mi ha lasciato, il caso di dirlo, senza parole con questa cosa dei fiocchi di neve. Professore, ma saltare da una lingua all'altra non è sempre facile, soprattutto quando siamo grandi, adulti. Giustissimo. Il problema del salto da una lingua all'altra, il cambio di codice, è stato addirittura l'oggetto di un esperimento, qui avevo preso parte io qualche anno fa. Avevamo provato a far sentire la favola del Piccolo Principe a dei parlanti che si la cavavano con l'italiano e il francese. E poi abbiamo fatto una cosa, siamo andati a spezzare, a fare un salto dalla lingua all'altra, spezzando dei blocchetti naturali di parole. Faccio un esempio, se dico leggo un libro, se dico leggo e poi cambio in un libro, è più naturale che se dico leggo un e poi cambio in un libro. Ecco, il cervello lo sa, il cervello riconosce dov'è il taglio e fa una fatica diversa a seconda che io tagli blocchetti naturali o li lasci integri. È un po' come dire che il cervello è più linguista di noi, e quindi la fatica probabilmente nel salto da una lingua all'altra riflette proprio la struttura della grammatica. Perché il cervello è più logico di quanto possiamo pensare. Non so tanto se è logico, noi anche quando pensiamo alla fisica ad esempio abbiamo una strana visione delle cose, se noi pensiamo una bottiglia piena di piombo, una bottiglia piena di niente che cadono da una torre, ci viene in mente che cade prima quella piena di piombo, invece no, il cervello è fatto un po' così, abbiamo avuto in dotazione uno schema che ci ha fatto evolvere, proseguire nella specie, ma non sappiamo tanto se sia logico, nel caso delle grammatiche per esempio sembra proprio che non sia tanto logico. Professore, oggi si passa generalmente dall'italiano all'inglese, ieri invece si passava dal dialetto all'italiano, dall'italiano ai dialetti, anche questa era una forma di bilinguismo. Sì, certo, decisamente. La ginnastica era uguale, se il nostro cervello fa ginnastica passando da una lingua all'altra. Esattamente, ci sono due cose da dire, la prima è proprio una cosa teorica, cioè la distinzione tra lingua e dialetto, per dirla con le parole di un linguista famoso che si occupava di Yiddish, Max Weinreich, era che una lingua non è nient'altro che un dialetto che ha anche un esercito e una marina, cioè in poche parole è un fatto solo politico, ricordiamoci che quando è nata l'Italia bisognava anche decidere che lingua parlare, anche lì abbiamo pescato un dialetto tra tutti quelli possibili, certo forse il più nobile. E la seconda questione è che il dialetto è certamente un fatto importante a patto di saperlo dominare. Quello che noi non vogliamo è che i nostri ragazzi a scuola mischino le due strutture, semplicemente perché parlare e dominare una lingua ti dà un vantaggio nella società, nel mondo del lavoro, negli affetti, sempre, insomma, decisamente importante. È un lombardo che dice sono dietro a leggere, una bella figura certo non la fa. Senti, infatti, a volte, adesso oggi parleremo della difficoltà ma anche dei vantaggi che imparare una seconda lingua ci comporta e regala, ma a volte è proprio la nostra lingua che ci dà qualche difficoltà, ad esempio i lapsus, che possono essere divertenti anche se talvolta imbarazzanti, possono diventare addirittura uno strumento di analisi per i linguisti. Sì, sì, le parole dobbiamo immaginarle un po' come degli oggetti fragili, e quando si rompono non si rompono in punti a caso, se una statuetta di porcellana magari mi salta il ditino della principessa, e le parole funzionano un po' allo stesso modo, per esempio noi siamo abituati noi linguisti a distinguere le radici dai suffissi, io posso dire per esempio spettacolo o spettacolino. E ogni tanto quando si rompono succedono le cose strane. Io mi ricordo una volta quando un preside disse ora vi offrirò, doveva dire un gustoso spettacolino, e disse uno spettacoloso gustino. E chiaramente quel punto fragile della parola era il suffisso e si sono invertiti. Poi l'effetto comico nel nostro cervello, misterioso anche quello, è stato subito evidente. Professore, grazie per essere stato con noi. Me le sono segnata, quella della lingua, un dialetto con esercito e con la marina. Ce l'ho qua, segnata vicino, la userò. Grazie professore, buon Natale, tanti auguri. Grazie a lei e a tutti voi. Dove andiamo a quel militare là? A quello? Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Escusi, e scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. E di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ma il tedesco? Te l'ho detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, escusami. C'è che? Bitte schön. Noio. C'è che? Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ja. Ja. da Totò, Peppina e la Malafemmina. 800240024, questo è il numero per parlare con noi, e oggi parlate, cercate di parlare più del solito, perché parleremo con tanti esperti del linguaggio, della nostra lingua madre, ma anche di quella che cerchiamo di imparare nel corso della vita. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, auguri. Auguri anche a lei. Professore, due lingue aiutano a qualunque età? A qualunque età, due lingue, non più di due. Ci sono già da alcuni anni degli studi che dimostrano che imparare, essere bilingui o comunque imparare una seconda lingua ritarda lo sviluppo della demenza. Beh, c'è un lavoro recentissimo che dimostra chiaramente che i soggetti che parlino due lingue sviluppano la demenza, intendiamola come l'invecchiamento cerebrale, 4 anni e mezzo più tardi di chi parla una lingua sola. Non c'è beneficio dall'imparare una terza lingua. L'altro aspetto importante è che questo aspetto migliorativo non è solo legato a quelli, non so, penso agli altoatesini che parlano italiano e tedesco, o a tanti nord europei, ma anche a quegli italiani che in pensione decidono di imparare una seconda lingua. L'apprendimento della seconda lingua provoca un incremento del volume e della connettività della corteccia. È in sostanza un'opera che assomiglia un po' a uno sgranchirsi i muscoli da parte di quelle strutture del cervello, in particolare l'ippocampo, che sono fondamentali per la memoria. Ma se linguaggio è anche parola, una cosa che molte persone fanno, il cruciverba, ha, e questo è un altro studio recente, un eccezionale valore protettivo. Chi sopra i 75 anni di età faccia il cruciverba 4 giorni a settimana ha una riduzione del 47% del rischio di demenza. Quindi cerchiamo di parlare qualche lingua oltre l'italiano, e una parole crociate serali male non fanno. Abbiamo in linea con noi Marcello, ci chiama da Roma all'800240024, giù di cruciverba allora. Marcello, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io volevo raccontare la mia esperienza. Io ho 40 anni, sono cresciuto bilingue perché mia mamma è di Londra, anzi la prima lingua che ho parlato è proprio l'inglese. Fortunello, Marcello. Grazie. Ma mi è sempre piaciuto studiare lingue perché, per conto mio, ho appreso qualche rudimento di francese, tedesco, poi ho studiato il latino a scuola. Adesso sto facendo un esperimento su mia figlia, nel senso che la mia compagna è polacca. Per cui mia figlia sta crescendo con 3 lingue, la mia l'italiano, quella della nonna l'inglese e quella della mamma il polacco. Sì. Ho scoperto di apprendere un po' di polacco mentre lei lo insegnava a mia figlia, ma mia figlia, che ha 22 mesi, già mi ha sorpassato adesso. Lei già parla, non solo capisce di più, quello già da un anno, ma parla più polacco di me. Per cui ho dovuto lasciar perdere questo polacco, che è veramente difficile. Secondo me, se saprà parlare il polacco, parlerà qualsiasi lingua del mondo, perché è veramente difficile. Ecco, voi dite che non ci sono lingue più difficili di altre, almeno, ma secondo me sì. Almeno il professor Moroci, che è un linguista, ci ha assicurato che non esistono lingue più difficili di altre, e forse noi abbiamo più facilità ad apprendere le lingue più vicine a noi. E poi comunque, Marcello, la mamma della sua bambina è polacca, e qualcosa evidentemente è passato. Professor Barbanti. Intanto il bambino ha una facilità innata, perché il bambino non impara come impara l'adulto. Il bambino impara le lingue come se fossero canzoni, e cioè le prende in blocco, come amo dire io, le scannerizza. Noi invece, quando impariamo una lingua, a volte cerchiamo di tradurre ogni singola parola con una certa difficoltà mentale e anche perdendo un po' di tempo. E ancora gli studi scientifici hanno dimostrato che 2-3 lingue sono assolutamente imparabili da un bambino che, come la figlia di Marcello, si appresti a parlare la sua prima lingua in maniera compiuta, senza che questo voglia rappresentare un ostacolo all'apprendimento dell'altra. Quindi immergiamoci tranquillamente già da piccoli in tante esperienze linguistiche, e nel caso della figlia di Marcello sarebbe un peccato non averlo fatto. Voglio leggerle il messaggio di Carmen, che ci scrive che ha molta facilità a imparare le lingue, adesso sta studiando l'ebraico, ma ha molta difficoltà a gestire i numeri. C'è un nesso tra le due cose, ci chiede professor Barbanti. Ma insomma, lingue e numeri seguono percorsi differenti, tanto è vero che ci sono delle situazioni, come per esempio l'invecchiamento cerebrale o situazioni di danno cerebrale a seguito magari di traumi, in cui selettivamente il paziente non riesce a contare. potremmo dire che si tratta di due capitoli separati e quindi non necessariamente l'essere bravo nell'uno consenta di fare agilmente l'altro, quindi ciò che accade a Carmen è un qualcosa di abbastanza consueto. Andiamo a Torino, c'è Ingrid che ci aspetta. Buongiorno Ingrid, buongiorno, intanto auguri. Buongiorno e buona sera a tutti. Grazie. Volevo semplicemente dire che io a 50 anni mi sono rimessa in gioco con l'apprendimento di una nuova lingua, premesso che vabbè, da anni studio l'inglese, ho studiato il russo, lo spagnolo, ho iniziato a imparare un pochettino il catalano e adesso mi sono messa in gioco con il tedesco, proprio perché ritengo che l'apprendimento e l'acquisizione di nuove lingue sia estremamente di stimolo per le nostre facoltà intellettive. Una cosa però mi crea veramente uno stato di, così, di angoscia, laddove soprattutto ho avuto modo anche di insegnare in istituti superiori, ovviamente lingua inglese, i ragazzi comunque non hanno la conoscenza dell'italiano per poter acquisire la conoscenza di un'altra lingua. Esattamente, è una carenza che la popolazione scolastica italiana ha veramente marcata. No, Ingrid, lei mi ricorda la mia insegnante di latino e greco del liceo che diceva ai genitori: non possono imparare il latino e il greco perché non sanno l'italiano. E quindi questo mi conforta, perché evidentemente è un problema che si trascina da tempo, no? Però insomma speriamo che i nostri ragazzi imparino bene l'italiano, che è fondamentale, come dice Ingrid, ma chiediamo conferma al professor Barbanti, per imparare anche le altre lingue. Professore. Esattamente come dice Ingrid, c'è da dire che esiste un dato a parziale spiegazione della relativa ignoranza dell'italiano dei ragazzi. I ragazzi ormai scrivono per sigle, CMQ per dire comunque, credo che qualche volta, ai nostri tempi si usava qualche volta la X per dire per, sì. Ma diventa una sorta di gergo in cui la difficoltà poi di distinguere lo slang del quotidiano da ciò che va scritto incomincia veramente ad essere grande. Però professore, quindi, lei si ricorda che già lo dicevano noi che eravamo ignoranti? Ah sì, certo. Certo, ma noi abbiamo imparato a memoria molte cose, sì. Però insomma forse i nostri nonni ne sapevano interi canti forse della Divina Commedia, no? A memoria, e quindi sotto questo profilo esercitavano la lingua nella italiana, che è una lingua meravigliosa quanto terribilmente complessa nella sua interezza. Però ha ragione Ingrid, questo è un fenomeno che stiamo registrando sempre di più, insieme anche ad un impoverimento del lessico, si usano espressioni sempre meno forti, sempre meno pregnanti. C'è da dire che in questo anche la televisione un po' è responsabile, si sentono ripetere spesso termini, non so, devastante. Devastante adesso è diventata qualcosa utilizzato per il tiro del calciatore, come per il corretto uso per un tornado. E insomma, questo dovremmo chiederci e forse dovremmo in parte emendare noi stessi il problema delle nuove generazioni. Professore, la fatica che molti dei miei ascoltatori mi stanno segnalando, scrivendomi messaggi, nell'apprendere cose nuove, che potrebbero essere in questo caso, vogliamo parlare di lingua, è un segnale di un invecchiamento del nostro cervello? No, non è esattamente questo. Apprendere cose nuove richiede una spaventosa quantità di energia. Ciò che viene fatto di getto non vuol dire che sia fatto semplicemente. Per esempio, produrre un suono, produrre un linguaggio, rispondere ad una sollecitazione verbale esterna prevede una serie di meccanismi particolarmente onerosi. Noi siamo spesso distratti, senza accorgerci, da altre sorgenti che prendono la nostra energia. Citiamo spesso lo stress, ma è esattamente questo. Quindi, a fronte della difficoltà di imparare, non sta sempre e solo il progredire dei nostri anni, anche perché le neuroscienze degli ultimi 20 anni hanno dimostrato che le nostre sinapsi possono aumentare di numeri, addirittura le cellule nervose sotto opportuni stimoli possono aumentare. Direi semplicemente che capita quello che succede in una casa quando attacchi la lavastoviglie, il ferro da stiro e anche il forno. Fuga di energia da una parte e salta tutto. Il problema non è l'impianto, troppe cose accese. Abbiamo Marco che ci chiama da Pescara. Buongiorno Marco, benvenuto e auguri. Grazie, auguri anche a lei. che mi racconta? Mi dà un segreto per imparare una seconda lingua velocemente, senza tanta fatica? Segreto, credo che non ci siano dei segreti. Credo che il modo più facile sia appunto imparare a blocchi, come ha detto uno dei vostri ospiti, e non collegare ogni parola a un significato preciso. Credo che si dovrebbe imparare come si imparano i bambini piccoli. Io ho imparato l'inglese, io sono bilingue, ho imparato l'inglese in Australia perché ci ho vissuto tanto, ci ho vissuto 10 anni e sono stato costretto a imparare la lingua, diciamo. Non l'ho trovato particolarmente facile, però credo di averlo imparato molto bene e che sono molto contento di aver imparato un'altra lingua, perché credo che dietro ogni lingua ci sia una cultura. Imparare un'altra lingua vuol dire concepire un altro modo di vivere. Assolutamente. Marco, quanto tempo sei fermato in Australia? 10 anni. 10 anni, quindi ormai lo sa benissimo l'inglese, Marco. No. Ma ho contatti ancora, io ho 2 fratelli che vivono ancora lì, quindi parlo inglese molto spesso e comunque è anche facile praticarlo l'inglese, anche ascoltarlo. Grazie Marco, intanto tanti auguri. Grazie anche a voi. Buona giornata. Ci scrive Tessa, 25 anni, vive a Firenze con una coinquilina francese, collega di dottorato a un istituto internazionale. Tra noi parliamo una settimana italiano, una francese e un inglese. Un buon allenamento? Ci chiede professor Barbanti. Ma intanto fortunata a poter possedere così tante possibilità, sicuramente un buon allenamento. Mi veniva da pensare, mentre parlava il nostro ascoltatore Marco, che la migliore maniera per imparare le lingue è metterci nella condizione emozionale di un bambino, e essenzialmente sono due, l'emozione e il bisogno. Sembrerà una fesseria, ma la maggior parte delle persone che parlano bene lingue straniere hanno vissuto, e quindi necessità hanno dovuto fare virtù, in paesi stranieri. Quindi oppure bisogna prendersi un fidanzato o una fidanzata straniera, perché lì c'è emozione e necessità insieme. Io non dovrei dirlo, ma insomma ho imparato il tedesco così. una fidanzata straniera o un fidanzato straniero non è uno scherzo. Un enorme stimolo a saltare quel meccanismo pedante di traduzione sillabica, quasi di sillabazione che noi facciamo traducendo il nostro pensiero in una lingua straniera, passando invece ad una esplosione, ad un tentativo quindi di scannerizzare, come dicevamo prima, l'informazione che proviene dall'esterno e conseguentemente di farla fuoriuscire attraverso questa maledetta area di Broca, che è un'area del cervello che serve per la produzione dei fonemi e dei suoni, ovviamente delle parole con un loro significato. E noi faremo lavorare questa area del Broca, perché noi continueremo a parlare di linguaggio, di seconde, di terze lingue, di difficoltà nell'apprenderle, dei vantaggi che noi otteniamo, ma parliamo anche della nostra lingua madre. Abbiamo facilità, è così fluente, spesso ci mancano le parole, facciamo lapsus e abbiamo qualche difficoltà, vediamo che in qualche modo rallentiamo un po', ne parliamo subito dopo i mercati. Intanto vi aspetto con le vostre parole. Cuore e denari. Chi ama, chiama chi sei. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, che chi ami, chiami. Arriviamo, eh. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama, chiama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama, chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Uno scioglilingua per riprendere a parlare di lingue e di linguaggi. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario, neurologo all'ospedale San Raffaele Pisana di Roma, e abbiamo in linea con noi Francesco che ci chiama da Verona. Buongiorno Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Siamo qua. Lei parla più lingue oppure ha qualche difficoltà con la nostra lingua, perché parleremo anche di questo, di lapsus, di parole che non vengono, di quelle difficoltà che tutti noi incontriamo. Beh, per via dei lapsus penso di essere nella media come un po' tutti quanti. Io volevo parlarvi invece del fatto come ho imparato le lingue. visto che io ne parlo quattro lingue, sono madrelingua ungherese. Sì. E sono nato in Romania, quindi sono cresciuto là, e da 13 anni che sono in Italia. E parlo anche l'inglese, questo l'ho imparato, cioè l'italiano e l'inglese li ho imparati più per un interesse personale, per passione, diciamo. Senti, e lei quindi, Francesco, ci racconta che ha anche abbastanza facilità nell'apprendere le lingue? Sì, adesso ho cominciato ad imparare il tedesco. Vede. Però subito mi sono trovato in difficoltà. E allora ho ricominciato a fare le stesse cose che ho fatto per imparare l'inglese e l'italiano. Praticamente ecco. Comincio ad ascoltare musica tedesca, dei programmi TV, radio tedeschi, così, giusto per svegliare per creare quell'interesse proprio di capire quello che stanno dicendo. Perché così apprende il suono, si dice così, giusto? Sì, esatto. E poi? Si mette con la grammatica in mano e inizia a studiare, perché poi la lingua va studiata, me lo conferma Francesco? Assolutamente sì, lo posso confermare anche con l'italiano, è stato di grande aiuto studiare la grammatica, i libri. Francesco, lei ha una mamma ungherese, ma molti dei nostri ascoltatori, stuzzicati da me e dal professor Barbanti, mi scrivono come hanno imparato le lingue. Francesco l'ha imparato perché era bilingue dalla sua mamma, ma professor Barbanti, qua ci sono tantissimi ascoltatori che mi scrivono perché hanno imparato, con chi hanno imparato queste lingue che vengono ormai descritte una lingua per amore, e c'è chi ha imparato il greco moderno, c'è chi ha imparato il russo, l'inglese, il francese, l'ungherese, insomma ci sono, meno male che ci sono i fidanzati e le fidanzate. È vero, ma mi faccio dire da neurologo come mai sia così difficile imparare una lingua rispetto, per esempio, a imparare uno sport. Pensiamo per esempio allo sci. E quando arriva un suono, il suono arriva nell'area uditiva che rimane nella parte sinistra del nostro cervello, viene deglutito il suono e viene fatto rimbalzare più indietro in un'area dove viene smembrato nei suoi componenti e poi ricomposto nel significato, prima compresi i fonemi, cioè le sillabe, poi la sintassi, poi la semantica. Adesso ho capito, ma una volta che ho capito devo anche rispondere. E pensiamo per esempio che questa prima fase la possono avere anche gli animali. Al cane a volte diciamo vai a prendere, non so, la palla, lui capisce e va. Cosa ha creato la specie umana? Ha creato, e questo è difficilissimo da utilizzare, e tutti i nostri poliglotta che hanno telefonato ce l'hanno ben sviluppato, il ponte sullo stretto, che è il fascicolo arciforme che vola dalla zona della decodifica in quella di Broca, che invece è quella della produzione. Ebbene, è evidente che quando questo meccanismo venga oliato con una certa regolarità, per esempio il bilingue, l'utilizzo l'inserimento di una terza o di una quarta lingua risulterà meno complesso, perché questa introduzione del suono, digestione, ricomposizione, espulsione tramite il ponte fino alla zona in cui il linguaggio viene prodotto avviene con maggiore facilità, ma con un notevole dispendio di energie. Ecco perché a volte, quando siamo stanchi, la lingua straniera esce fuori con qualche strafalcione. Laura ci chiama da Firenze, Francesco da Verona, e quindi professor Barbanti, lingua chiama lingua. Sicuramente sì. E vorrei chiedere agli ascoltatori se queste persone che parlano così tante lingue sono anche intonate. Va bene, perfetto. Laura, buongiorno. È intonata? Buongiorno. Laura, è intonata? Io ho studiato musica, ho fatto solfeggio cantato, orecchio musicale, che dico la verità mi ha molto aiutato nell'imparare le lingue. Io ho imparato tante lingue nella mia vita, a partire dal tedesco, ci metto anche il greco e il latino, sono praticamente trilingue in spagnolo e in inglese, e poi dallo spagnolo ho imparato facilmente a parlare e capire, non a scrivere, il portoghese per esempio e il francese. Laura, secondo l'Economist, come abbiamo citato, l'utilizzo di più lingue aiuta le persone a essere più creative, più concentrate, ad avere fiducia in se stessi. Lei ha trovato questi vantaggi? Io sì, sicuramente, a parte l'utilità pratica. Sì, questa non cioè è scontata, sicuramente è anche scontata, per il lavoro. Ma sicuramente è una forma di allenamento mentale. Io ho vissuto a lungo all'estero, in particolare sono stata 9 anni in Spagna e mi ricordo un giorno al lavoro che ero lì che stavo leggendo un documento in tedesco, avevo una persona che mi parlava in inglese al telefono e subito dopo parlavo in spagnolo con una collaboratrice e tutto questo è un allenamento incredibile. Io volevo anche aggiungere, come ho detto alla gentile signorina che mi ha risposto, io sono una chimica, sono il pianoforte e anche quelli sono linguaggi, i disegni delle molecole sono un linguaggio da imparare, le note musicali sono un linguaggio. Io quando posso, ormai ho una certa età, ho 52 anni, e quando mi capita che ragazzi mi chiedano consigli perché ho avuto un percorso professionale, chiamiamolo, di successo, gli consiglio sempre di imparare tante lingue, tanti linguaggi anche simbolici perché aprono la mente. Laura, scusi, le giro una domanda di un ascoltatore che scrive: un poliglotte in che lingua pensa? Laura, lei in che lingua pensa? In italiano oppure ci sono dei momenti in cui pensa in altre lingue? Sì, io penso anche, dipende dal momento, se per dire sono nel mezzo di un intorno, non so, quando sono in America io arrivo anche a sognare in inglese. E questo dicono, chiediamo conferma al professor Barbanti, che quando si sogna in un'altra lingua, che non è quella propria, vuol dire che proprio la lingua è stata metabolizzata, usiamo questo termine. Sicuramente corretto, perché è l'espressione del fatto che il fenomeno corticale, quindi cosciente, è sgocciolato in profondità verso i nuclei grigi che sono nella profondità del cervello, che sono quelli più ancestrali, più antichi, più istintivi e più emotivi. Ma c'è di più. Il vero poliglotta, e la nostra Laura evidentemente lo è, se fosse studiata con una risonanza magnetica funzionale mentre parla spagnolo, inglese o italiano, si vederebbe che attiva le stesse aree cerebrali, mentre invece chi ha imparato tardivamente e in maniera un pochino più raffazzonata la lingua vede attivare la corteccia del lobo frontale, che è quello un po' dello sforzo, del dominio cosciente. Come vedete è veramente un tema estremamente complesso e affascinante, e d'altra parte le neuroimmagini hanno dato un contributo enorme anche per capire le strutture coinvolte e la facilità dell'utilizzo di alcune aree del cervello che sono preposte in alcuni casi all'istinto, pensiamo a quelle profonde, in altri casi invece al ragionamento razionale e cosciente come la corteccia frontale. Voglio leggervi un messaggio di un ascoltatore che si firma Stefano Perez, ma io mi ricordo che è un enigmista italiano che ha ideato per sé proprio la definizione di giocologo, quindi lo ringrazio per avermi scritto e ci scrive: se inventare una parola significa avere una mente creativa, la creatività dovrebbe essere stimolata, come abbiamo detto, anche dall'apprendimento di più lingue. Perché, ci scrive Stefano Perez, io ho inventato la parola balzeccare, che significa azzeccare al balzo, non solo la parola ma anche il significato del tutto. Su Facebook trovate il suo profilo dove c'è scritto come gli è venuta in mente questa nuova parola, balzeccare. Se vuole raccontarcelo in diretta, anche per lui 800 24 00 24. Buongiorno, si può prendermi? Buongiorno, sì, ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome? Ah sì, certo, aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ma sì, sì, Mirella, certo, scusami. Ma ti ricordi quella cosa che mi avevi detto tu? Che bisognava sempre cercare il mistero? Quella cosa che dicevi tu? Dicevo così, non mi ricordo. Ci vogliono impegno, attenzione e memoria per imparare le lingue. La memoria, lo sappiamo, è un po' il nostro tallone d'Achille. Ne parleremo insieme al professor Barbanti nel corso della nostra trasmissione. Mancano le parole, mancano i nomi, forse magari uno ha imparato una lingua ma si accorge, come mi scrivete in tanti, che mancano poi improvvisamente dei termini che si sapevano fino all'attimo prima. 800 24 00 24. Io vi aspetto. Cuore e denari. E oggi parliamo di lingue di linguaggio. 800240024. Ci scambiamo anche gli auguri. Tra poco è Natale, nelle lingue che conosciamo. In linea con noi abbiamo sempre il professor Piero Barbanti. E parlando di lingua, non potevamo evitare di parlare di quelle difficoltà che avvertiamo quando parliamo: parole che non vengono, strutture che saltano, parole pronunciate al posto di altre, come succede nei lapsus, vuoti di memoria. Tutto questo ci fa vivere in quell'istante in cui rimaniamo un po' senza parole, professor Barbanti. Sì, a volte rimaniamo senza parole anche perché è difficile pronunciarle. Mi veniva in mente questo balzecchiare, una specie di scioglilingua. Noi abbiamo spesso balzeccare, giocato, bello, a me è piaciuto balzeccare. Ecco, infatti ho già saltato una delle consonanti. In realtà pronunciare la parola, quindi non solo pensarla, non solo tradurre il pensiero in parola, ma anche articolarla con lingua, labbra e denti, è un fenomeno complesso che riguarda non solo i foniatri, gli otorini, ma anche i neurologi. Per esempio, che diciamo, professor Barbanti, mettete un po' lo zampino ovunque. Sì, noi cerchiamo di mettere... Poi vi allargate. Noi cerchiamo di mettere sempre il soggetto in condizioni di stress. Per esempio, quando si vuole stressare un soggetto, a occhi chiusi gli si chiede di fare di sottrarre il numero 7 da 100 per 6 volte. Vedrà che vengono fuori tutte le magagne, se ci sono tremorini, tic vari, si attivano. Noi conosciamo il famoso scioglilingua: sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa. Ma quello che noi utilizziamo, direi piuttosto frequentemente nell'esame neurologico, è vedere la capacità di alternare le consonanti di tipo dentale, come la T, con quelle che vengono chiamate con un nome complesso le fricative alveolari, per esempio la R, che è prolungabilissima. Esempio, territorio. C'è la T che frena, la R che prolunga e la T che frena ancora e poi un'altra R. Territorio, territorialità, extraterritorialità. Questo è semplice, certamente per un giovane, certamente per un attore o per un conduttore radiofonico, ma può dimostrare problemi neurologici, non tanto di tipo necessariamente corticale, le afasie, quanto di quelle strutture che servono per i fenomeni fonoarticolatori. Si può provare a farlo a qualche nonna, sì, o a qualche nonno, qualche manchevolezza la condoneremo, però anche questo è una delle espressioni del linguaggio che sono di interesse neurologico, non solo, dicevo, la traduzione del pensiero in parole e viceversa. Professor Barbanti, già quando lei ci ha raccontato che per mettere in difficoltà, sotto stress, una persona gli si chiede di sottrarre a 100 il numero 7 per 6 volte, ha subito acceso la curiosità dei nostri ascoltatori. Perché proprio il 100? Perché proprio il 7? Cosa succede? Perché non dà mai lo stesso numero finale. Se noi sottraiamo il 2 avremo sempre 2, 4, 6, 8 e così via. Se sottraiamo il 3 avremo un certo numero di numeri che si ripeterà successivamente, ma se le diamo 7 viene ogni volta l'ultima cifra diversa e quindi non c'è mai una regola. E quindi adesso non vorrei fare sbarioni in diretta, ma insomma, no. 93, 86, 79, 72, 65, vedete che cambia sempre l'ultima cifra. Se provate a farlo con gli altri numeri, non è funziona. Così semplice. 800240024. Roberto Scaltritti, ho visto che prova, lui dice che ce l'ha fatta, io non ci credo tanto, adesso quando mi tolgo le cuffie vado a sentire. E adesso vado a salutare Sara che ci chiama da Napoli. Buongiorno. Salve e auguri a tutti. Anche a lei. Dunque, io ho questo problema, mi piace molto scrivere e anche mi piace anche parlare e quando sono tranquilla e calma mi viene tutto molto semplice, linguaggio molto fluido, le parole appropriate, dei termini creativi, ma basta che sto un poco in ansia e scatta il blocco, per cui anche se sto sola con un foglio di carta davanti o un computer non trovo le parole. Come se fossi un analfabeta improvvisamente. Questa cosa mi dà molto fastidio perché mi limita. Volevo sapere se c'è qualche rimedio. Grazie Sara. Grazie a voi. Professor Barbanti, c'è un rimedio o è necessario un rimedio? pause e respiri, verrebbe in mente di dire, come prime cose semplici. Vede, il linguaggio è una cosa estremamente complessa e paradossale, perché sotto un certo tipo di emozioni siamo dei torrenti in piena, una lettera d'amore oppure una lettera di odio. Quando l'emozione si unisce a frenesia e quindi appena una nuance diversa, ecco che il linguaggio o la creatività, la capacità di articolare parole, articolare suoni, diventa complessa. Ma un rimedio su due piedi non c'è. Ricordo sempre in maniera insistente il fatto di lasciare tempo al nostro cervello. Noi viviamo in una dimensione spazio-temporale abolita, raggiunti sempre, ovunque, in ogni istante, incalzati. Noi facciamo finta di dimenticarlo, il nostro cervello no. Una pausa, alziamoci un attimo, respiriamo profondamente, magari facendo una corsetta lo forziamo il respiro, torniamo e ci torna tutto più naturale. Quello che bolle in pentola, non te lo voglio dire. E noi andiamo a vedere cosa bolle in pentola, perché, professor Barbanti, il cervello per funzionare bene deve avere anche il giusto carburante. In linea con noi allora abbiamo il piacere di avere il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Auguri e buongiorno anche a lei, dottor Gualerzi. Auguri a tutti voi, buongiorno. Senta, professore, noi siamo ormai arrivati quasi a fine dell'anno, siamo un po' tutti stanchi, ci sentiamo un po', come si dice tra noi, bolliti, e allora perdiamo i colpi, siamo più stanchi, affaticati, ci viene una parola per un'altra, facciamo fatica ad imparare cose nuove, abbiamo bisogno di un po' di energia fresca per riprenderci. Sì, direi che il cervello può, diciamo, perdere dei colpi anche se siamo giovani, no? A causa non tanto solo dell'ansia, come ha detto il professor Barbanti, o delle poche pause, ma anche di un'alimentazione scorretta. Esistono infatti dei cibi che danneggiano anche i percorsi neuronali, quindi che ci fanno funzionare meno bene il cervello, altre che, diciamo, lo fanno funzionare bene. E visto che vengo sempre tacciato di essere troppo severo, dico subito che ad esempio le diete che vanno di moda oggi, che tolgono la maggior parte dei carboidrati dell'alimentazione, non aiutano di certo il cervello, che invece funziona molto bene con gli zuccheri. Quindi uno dei motivi per cui anche quando facciamo la dieta ci sentiamo un po' tristi, depressi, sì, non funzioniamo bene, proprio perché non mangiamo le quantità sufficienti di zuccheri, cioè di carboidrati, tenendo conto che il cervello funziona con quella benzina. Quindi per una volta dico sì al pane, sì alla pasta, sì agli zuccheri provenienti però magari, o comunque zuccheri più complessi, quindi pane e pasta da cereali integrali, che oltre a darci appunto il comburente necessario per far funzionare bene il cervello, diciamo, alzano anche i livelli di serotonina, quindi del buon umore. Quindi teniamo da conto di mangiare gli zuccheri giusti, partendo già con una buona colazione, e magari di fare tanti piccoli spuntini durante la giornata, magari metà mattina, metà pomeriggio, con dei cereali integrali o con della frutta, che fanno, senza appesantirci troppo, aumentare quelle diciamo benzina utile per il nostro cervello. Adesso che l'abbiamo in qualche modo tirato su, cosa non dobbiamo fargli mancare mai? Ma direi sostanzialmente le vitamine fondamentali, abbiamo parlato dei carboidrati, abbiamo parlato voglio dire ancora gli omega 3, quindi gli acidi grassi polinsaturi, ad esempio li prendiamo dal pesce, dalle mandorle, dalle nocciole, no? La vitamina E, l'acido folico, la vitamina D, questo me l'ha insegnato anche il professor Barbanti parlando con lui, ma condivido appunto, queste vitamine sono fondamentali. Diciamo che la vitamina E la si trova in grandi quantità anch'essa nei semi, nelle mandorle e nelle nocciole. Basterebbero, pensi, in alcuni studi vengono detti anche 30 grammi di frutta secca al giorno per avere il 25% di probabilità in meno di sviluppare addirittura alcune forme di demenza e l'Alzheimer. Quindi questo tradotto in nocciole e noccioline, ricordiamo sempre non salate, vero dottor Gualerzi? Certo, perché sennò meglio. Il dottor Gualerzi me le dà. Quindi non salate, cosa vuol dire? Una decina al giorno, diciamo che apportano quella quantitativo di vitamina E, no, fondamentale per mantenere in forma il nostro cervello. Poi abbiamo parlato dell'acido umbrico. Quindi 10 mandorle al giorno tolgono la demenza di torno? Diciamo che per fare la rima andrebbe benissimo, ma anche realmente. E poi diciamo l'acido folico, che migliora anche l'udito, quindi diciamo la parte neuronale dell'udito, si trova in tutte le foglie, in tutte le verdure a foglia larga, verdi, no? Ma anche diciamo in alcuni, nella maggior parte delle frutta. La vitamina B6, che ancora una volta la troviamo nei cereali e integrali principalmente. E poi la vitamina D, che ahimè la prendiamo, dico ahimè per il clima che c'è in Italia in questi giorni, stando il più possibile all'aria aperta, ma anche avvalendoci di alcuni elementi, tra cui anche il salmone, visto che lo dico perché in questo periodo si mangia, abbiamo parlato anche la settimana scorsa delle tavole imbandite con il salmone per Natale, diciamo che contiene, è uno degli alimenti che oltre a contenere omega 3 contiene vitamina D, e questo è fondamentale. E anche lì diciamo che nei paesi dove si sta più in esposizione con il sole, dove c'è più vitamina D, si rischia meno di sviluppare forme anche lì di demenza come l'Alzheimer o altri tipi di demenza. Quindi diciamo vitamina D, vitamina B, acido folico, vitamina E, cereali integrali e omega 3. E vai, e siamo splendidi. Come a dire che a tavola non si invecchia, o se lo si fa si invecchia bene. Ma io dico che la tavola deve essere un piacere, no? Prima di tutto, ma deve essere soprattutto la volontà di ciascuno di noi di sedersi per farsi del bene. Quindi non sono d'accordo nel saltare i pasti, nel fare troppe limitazioni, perché abbiamo tantissimi, soprattutto in Italia con la dieta mediterranea, prodotti che possono ogni volta che ci sediamo a tavola aiutare la nostra salute, anche appagando il palato. Quindi non crediamo alle diete miracolose, non previamoci delle cose, ma mangiamo cose giuste appartenenti alla dieta mediterranea che possono migliorare sostanzialmente la nostra salute. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro un buon Natale e forse ci sentiremo ancora prima del 31. Buona giornata. Perfetto, auguri a tutti voi, arrivederci. Abbiamo tempo solo per sentire la voce di Mario dalla provincia di Milano e poi lo traghettiamo dopo il GR. Mario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Mario. Auguri di buon Natale. Auguri, devi abbassare la radio, Mario? Sì. Eccolo. Auguri anche a lei. Auguri. Mi anticipi il suo commento e poi viene con me a farmi da cavaliere per tutto il GR e ci risentiamo dopo. Mario. Va bene. Io volevo portare la mia esperienza e rispondere al dottor Barbanti per quanto riguarda la connessione tra musica e imparare le lingue. Sì. Per me è stato fondamentale, io sono un autodidatta, canto, ho molto orecchio per la musica, non l'ho studiata la musica, perché sono svogliato, però sono tanti strumenti ad orecchio, canto e parlo tante lingue, grazie al lavoro che ho fatto per 22 anni di assistente bagnanti. Quindi, assistente bagnanti e quindi anche fidanzate, Mario stia lì, parla molte lingue, canta, ha orecchio, suona strumenti musicali, è il mio cavaliere per il GR, ritorniamo subito dopo insieme, vi aspetto. Cuore e denari. E siamo tornati insieme 800240024 per parlare con noi, perché oggi dedichiamo la nostra puntata alle lingue e al nostro linguaggio. Un linguaggio, professor Barbanti, che ha qualche cosa di molto simile anche al linguaggio musicale. Mario dalla provincia di Milano, che è ancora in linea con noi, che mi ha accompagnato durante il GR, ci raccontava della sua facilità nell'apprendere le lingue, ma anche Mario, lei suona strumenti musicali, vero? Sì, ad orecchio, Ad orecchio, e quindi musica, canto e lingue. Sono È un perfetto connubio. Perfetto connubio. Mario, sentiamo se il professor Barbanti vuole aggiungere qualcosa. Chissà come è fatto il cervello di Mario, se gli facessero intanto che canta oppure parla una risonanza, si accenderebbero un sacco di aree del suo cervello, tutte con colori diversi. Direi che il cervello di Mario è stretto in una bella pinza, in una bella tenaglia tra i due lobi temporali, a sinistra il linguaggio, a destra invece la parte che coordina e controlla la nostra capacità di sentire il tono, il ritmo e la melodia. Pensate che ci sono soggetti che hanno danno in quella zona e sono affetti da una condizione chiamata di amusia. Però l'altra cosa che viene evidente in Mario è credo la passione, no? Imparare da autodidatta le lingue in maniera simile la musica. Questo riflette il fatto che esistono delle connessioni profonde tra queste aree della corteccia e le aree del piacere, che sono poste profondamente, il nucleo accumbens, che è il nucleo godereccio che sta acquattato. Quello lì mi piace, questo come si chiama quel godereccio lì? È nucleo accumbens, mi piace. Anche quello che si sveglia quando vediamo qualche oggetto che ci piace e che vogliamo comprare, poi esce fuori l'insula che dice ferma, il prezzo non è giusto. Mannaggia questa insula. C'è da dire una cosa, che la specie umana ha da sempre avuto bisogno della musica. Pensate che è stato trovato il flauto più antico del mondo, 40.000 anni, ed è l'osso del radio di un avvoltoio trovato sulla zona del Danubio con 5 fori sopra. E la specie umana è l'unica che ha la memoria di lavoro uditiva. Cosa vuol dire? Quando uno fa uno sproloquio molto lungo, io riesco a capire cosa sta dicendo perché tengo in memoria la parte iniziale del suo discorso. Ebbene, questo ci consente anche, quando sentiamo un motivetto, di capire in un certo senso dove andrà a parare. Cioè, sulla base dei suoni che abbiamo immagazzinato, sappiamo sostanzialmente, prevediamo il tono del ritornello. Insomma, il giro di Do sembrerebbe una questione nervosa. Quindi la musica ci aiuta a vivere bene, ma ci aiuta anche a pensare meglio. È così, professor Barbanti? Esattamente così. C'è tra l'altro una correlazione, per la verità mai scritta, ma molto evidente, tra la capacità di essere intonati e la capacità di apprendere lingue. Insomma, chi è stonato come una campana è un po' difficile che riesca a parlare in maniera fluente. Forse perché le capacità delle stazioni di ricezione del segnale acustico, rispettivamente a sinistra per quanto riguarda il linguaggio e a destra per quanto riguarda la musica, sono un pochino più cigolanti. Non è il caso del nostro amico Mario. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it. L'avete riconosciuto, e sicuramente lui parla anche le lingue molto bene, se è vero che, come il professor Barbanti ci raccontava, che bisogna essere intonati per parlare bene anche le lingue. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Mario Biondi. Mario Christmas, benvenuto. Buongiorno, sono molto, molto onorato di essere al telefono con voi, sono affascinatissimo da questo discorso del professore Barbato. Grazie, buongiorno. Buongiorno, io vorrei subito tornare a Mario Christmas, che è il titolo del suo ultimo CD, che contiene 10 brani, d'altra parte un titolo perfetto, no? Che Natale sarebbe senza musica, ma è un titolo perfetto anche per la trasmissione di oggi, che è dedicata tutta alle parole, al linguaggio. E tra l'altro questo titolo è proprio nato da, sembra un gioco di parole, ma è nato, lo è. Vero? Lo è assolutamente, certo. Com'è nata com'è nata Mario Christmas? Ma nasce un po' per gioco, come credo buona parte delle cose che mi sono successe. Nascono per gioco e per coinvolgimento di altre persone. Oh. È stato un gioco fra me e il trombettista, che appunto ha tirato fuori lui per la prima volta questa parola, questo Mario Christmas. È stato fantastico questo trombettista. A me è piaciuto subito. Beh, sì, assolutamente. Beh, se no non sarebbe il trombettista di Mario Biondi, no? No, sono io il suo cantante, devo dire, sono anche molto contento. Noi siamo partiti dalla ricerca dell'Economist che dice che sapere due lingue fa bene a noi e al nostro cervello perché lo rende più attivo, più pronto. Lei canta in inglese. È stato difficile per lei il cambio di registro linguistico? L'ha imparata da piccola questa lingua oppure ci è arrivato dopo? L'ho imparata già da piccolo. Ho fatto diversi corsi. Mio padre poi ci teneva molto appunto alla lingua, alla seconda lingua. E per lui l'inglese era il futuro già appunto quando io ero piccolo, quindi mi fece fare diverse scuole private. Man mano l'ho coltivato ovviamente crescendo ed ancora oggi lo coltivo perché non essendo ovviamente di madrelingua ci sono alcune cose, alcune sonorità, alcuni dettagli che sto ancora curando. Magari una vocale più aperta, una più chiusa, una S, una consonante più dura piuttosto che un suono più sibilante, sono tutti piccoli dettagli che ovviamente fanno anche la fonetica, certo, di una lingua, che è una parte ancora più difficile che imparare una lingua forse. Però lei era avvantaggiato perché essendo intonato le lingue le imparerebbe, le impara molto più facilmente. Professor Barbanti, questo un po' tutte le fortune, Mario Biondi. Professor Barbanti. Sì, mi veniva anche da pensare nell'ascoltare la magnifica voce con questa timbrica veramente formidabile, come il ritmo, quindi come la musica, induca il movimento. È difficile sentire una canzone come quella che ha cantata così da Mario Biondi e non battere un piede per terra. Questa sempre da un punto di vista neurologico. Ma perché lei è anche un po' romagnolo, professor Barbanti, la dica tutta. Anche io vorrei levare finalmente, levare un po' e dire sono romagnolo. Quindi questo, quando si parla di ginnastica aerobica, i nostri vecchi la facevano 3 ore, almeno 1 o 2 volte a settimana ballando alla sera, senza dubbio. Ma questo sta a dimostrare veramente il bisogno ancestrale di collegare il suono, la musica al movimento, è un tutt'uno e questo spiega anche nel passato, nell'antichità, la necessità di celebrare tutto con musica, con canto e con ballo, in un atteggiamento che è liberatorio per la mente e per il corpo. La gente va in discoteca a ballare, adesso magari si potrebbero aprire capitoli sul tipo di musica che si balla in discoteca, ma dimostrerei tutta la mia età, ma per avere un appagamento completo del piacere, e qui torna quel nucleo accumbens, il nucleo spendaccione del nostro cervello, ma anche un appagamento fisico, perché nel contempo, così come quando mangiamo un qualcosa che ci piace, smaniamo come il bambino sul seggiolone quando viene imboccato con la pappa preferita, la musica su di noi fa questo. Ed è il motivo per cui ne rimaniamo folgorati e i grandi artisti hanno la fortuna di vivere immersi nella loro passione psicologica, artistica e fisica. Mario Biondi? Che bellezza! Lo ascolterei per ore. Vero? Ecco, è veramente una coccola il professor Barbanti, perché spiega in modo chiaro delle cose che noi avvertiamo, ma di cui non conosciamo bene, no, le origini, la causa, e così diventa tutto più semplice. Mi piacerebbe chiedergli una cosa, sì, assolutamente. Mi piacerebbe chiedergli quanto sforzo mnemonico richiede appunto il canto, l'inglese piuttosto che tutta questa cosa, oltre a dare un grande beneficio. Glielo chiedo perché talvolta magari scendo dal palco che sono così stanco che sembra di aver fatto, che so, una maratona veramente. Professor Barbanti. La risposta è complessa e semplice nel frattempo. Dicevamo all'inizio della trasmissione come il parlare lingue diverse dalla nostra ritardi l'invecchiamento cerebrale, ma lo ritarda perché ci fa fare gli straordinari che Mario Biondi avverte perfettamente dopo un suo concerto. Quando noi utilizziamo una lingua straniera, tra l'altro in questo caso c'è anche la manifestazione, la esibizione, la necessità di non sbagliare, noi attiviamo la memoria di lavoro, la memoria semantica, cioè la memoria del significato di quello che stiamo dicendo, la discriminazione di suoni differenti. Insomma, è come se noi facessimo ginnastica a corpo libero, non un singolo bilanciere per un bicipite, quindi esci fuori veramente stremato. Ma questo è la base di quella crescita delle connessioni nervose e anche l'incremento dello spessore. Mario Biondi è un omone, immagino quanto sia spessa anche la corteccia della zona uditiva a sinistra e di destra, quella della musica, del suo cervello, proprio perché le sinapsi, le cellule nervose ramificano i loro piedini, si abbracciano l'una all'altra, creando connessioni che sarà difficile scollare nel fisiologico invecchiamento di tutti noi. Insomma, Mario Biondi è un vero atleta, possiamo dire così? Direi di sì. Tra l'altro ho la sensazione che mantice toracico occorra utilizzare nel cantare e anche nel cantare in maniera prolungata, perché insomma la volata ad uno sprinter dura poco, alludo al ciclismo, ma qua sembra piuttosto una interminabile cronoscalata, no? E da neurologo, se non sto neanche fermo, ballo come un santo, come un grillo, fra parentesi, sul palco, perché non riesco neanche a stare tanto fermo. E meno male. E possiamo dire che Mario Biondi ci piace così. Allora, io aspetto Mario Biondi e anche il professor Barbanti, così vi incontrerete, vi scambierete il professor. E intanto vi auguro tanti auguri di Natale a Mario Biondi, al professor Piero Barbanti, che è rimasto con noi, che ci ha accompagnato per tutta questa puntata. Grazie e buon Natale.